24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Era da due giorni che frullava nella testa, eccolo qui, il Dies Ires. Ire, l'Ires, racconto Ires. Il Dies Ire, o il Dies Ires, o Irap, o Iva, o Imu, o Ici, o quelle robe lì, insomma, Irpef. È perché Letta dice che non ha aumentato le tasse, l'ha detto Letta, eh. Vabbè, questo è 24 mattino, siamo qui con Miriam Lucchetti che oggi festeggia, non lo so perché festeggia, lo so io perché festeggia, perché oggi va in vacanza poi, Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia, il Dies Ire. E il DS? Sì, non ce l'ho con Trafile 3. Milan, sei proprio un coglione. Ma è possibile che sei un pirla così, lavori in radio? E il mondo va così. Vabbè, pazienza. Pazienza. Saluto Vincino! Buongiorno. Buongiorno, è il DS Ires. Terribile, quello del 110% in più del... Tutti questi in più, cioè, in più. Questi non sanno fare altro che prendere da un lato e raddoppiare dall'altro. No, ma come? Cioè, ma che Enrico Letta ha detto non abbiamo aumentato. Chi dice che abbiamo aumentato le tasse dice falsità. Lo ha detto ieri. Quei poveretti che fumano le sigarette elettroniche sono tutti, tutti ritornati alle Marlboro, quelle pesanti, o le Alfa, quelle pesantissime, sì, nazionali. Pensate, perfino Vincino l'ha capito, sul Foglio oggi una straordinaria vignetta, ritorna, spero di trovare lavoro nel contrabbando che elettronicamente rifiorirà, più 58% di tasse sulla sigaretta elettronica. Che poi gli altri paesi intorno no, per cui io compro sigarette in Italia, le rivendo in Francia, non pago l'IVA, la ricompro di là, si faranno dei business pazzeschi, guarda, con questa cosa qua. Sì, vabbè. Come dice il nostro ascoltatore, è così, come fa a lavorare in radio, pazienza, vabbè. Va bene, insomma, apriamo il nostro Parlamento intanto, anche oggi può aprire e tra l'altro io non lo voglio il caffè della Minetti, tu continui che forse hai preso anche tu i suoi favori, trozzane col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Tanto da tornare storto come il dottor House. Vabbè, che dobbiamo dire? Questo è. Allora, oggi si chiude in Parlamento l'ottava settimana decisiva per la riforma elettorale e l'ottava settimana decisiva per l'abolizione delle province, hai capito, caro Vincino? Questo. Mi sembra che di tutte e due cose in questi ultimi giorni non ne ho sentito parlare per niente proprio. No, come no, adesso ti do, guarda che adesso ti do una notizia, guarda che ho trovato sul Sole che hanno cambiato, eccolo lì, attento, attento perché c'è sul Sole 24 ore oggi, l'ho già scritto su Twitter, ho detto no, vi prego, saggi, scribi, comitato dei 40, vi prego, questa non me la dovete fare, basta Porcellum, non si vuole, basta Mattarellum, è spuntato un nuovo. Vincino, ti prego, aiutami. Torniamo al prima. Ora guardano alla riforma australiana. Oh, il kangurum! Il kangurum, no! Saltare, che cosa fa il kangurum? Non lo so, non me ne frega niente. Non voglio sapere. La Premier donna, però, bella. Ma si è dimessa. Si è dimessa ieri, pare. Si è dimessa pure ieri. Ah, per questo hanno preso il kangurum. Non lo perché so. Questa si è dimessa ieri, stupendo, sono eccezionali. Non lo so, adesso però io ti giuro che se trovo il primo costituzionalista che spiega come si vota in Australia, io me ne vado. Io me ne vado, non il kangurum, no, non lo posso accettare, non lo posso sopportare, il kangurum, no. No, no, questa veramente il kangurum, neanche Sartori riuscirà a farmelo digerire il kangurum. Tu l'hai capito poco, no? Ma no. Allora, guarda, il kangurum è il sistema elettorale uninominale a ballottaggio preventivo utilizzato in Australia. Non so molto di più. Al momento Ho capito. Cioè, non ho capito nulla, però il preventivo come dire, mi convince molto. Vabbè. Senti, Vincino, qua siamo solo io e te, non so se hai capito. Oggi Paolo Del Debbio non si è svegliato. Abbiamo chiamato Paolo Del Debbio, ma non. No, dorme, mi scrivono la servitù, butta giù il telefono, mi scrivono questo, cioè noi chiamiamo e la servitù il suo castello. Sì, esatto, maggiordomo, lo so. Batman, sì, no, sarà che aveva Batman, sarà qualcuno che ha detto ma che chiamate alle 6:30, che lavoro in televisione, guadagno. Sì, vabbè, no, parliamo allora seriamente questa storia delle tasse. Allora qua bisogna chiarirla fino in fondo, 110% perché... di anticipo, ma manco gli strozzini dei peggio quartieri di Palermo fanno così. Sì, chiariamo una cosa, se uno ti chiede un aumento dell'anticipo, alla fine il saldo è quello, cioè vorrà dire che dopo pagherai meno, no? Però il dato di fatto che... Infatti... ora mi servono i soldi, non dopo, tutta la vita io faccio inseguire sto dopo, ma a me la mia mancanza è ora. C'è domani, guarda, ma che cosa? Infatti, come i ragazzi, diciamo, i ragazzi sono arrabbiati perché ora vogliono i soldi, ora vogliono lavorare, ora vogliono tutto, no? Tra l'altro io devo dire una cosa, questa l'ho capita in Europa, allora è successo questo, ieri l'abbiamo raccontato, Cameron ha deciso di tagliare per 11 miliardi di sterline la spesa pubblica, tra l'altro per il governo che verrà, quindi per il futuro. Ieri al Consiglio europeo si è presentato Letta e come tutti gli altri capi di Stato ha detto, capi di governo, ci vogliono l'anticipo di questa youth guarantee, no? Ci vuole l'anticipo dei soldi, dateci soldi per i giovani. E Cameron sai che ha detto? Ha detto... No, scusate, io non sono d'accordo. Fate come noi, tagliate la spesa pubblica e vivete di quello. E io devo dire, mi sento inglese da questa mattina. Vado in giro e parlo in inglese. Sì, aspetta, però subito dopo mi sono messi d'accordo perché gli hanno dato un bello sconto sull'agricoltura, su qualche cosa a Camerun, e Camerun è rientrato dalla sua. È rientrato dalla sua, sì. Però il principio non era sbagliato. Camerun è delizioso, va benissimo, in questa cosa qua, stupendo. No? Poi dopo però che si accontenta di un piccolo sconto e recede, come dire, è un disastro. Voleva quello. Cioè, le posizioni di principio, come dire, gli inglesi sono belli perché sono tosti, duri, no? No, perché poi... infatti, invece ha ceduto al primo sconto. No, comunque il principio è giusto, cioè Cameron ha detto, ma io ho tagliato la spesa pubblica, ma fatela anche voi, ma cosa volete da me? Volete l'anticipo dei soldi, eccetera? Io ho tagliato, fatelo anche voi e vivete di questi soldi. Anche oggi ci sono i calcoli sui giornali, 805 miliardi di spesa pubblica in Italia e non si capisce come si tirino via dei soldi, dove si tirino via, dove si possa risparmiare. Il Corriere della Sera ci racconta che il tesoro è alla caccia entro la fine dell'anno di 11 miliardi di euro. Io mi sono guardato in tasca, oggi ho una chiavetta aziendale, c'è dentro 7 euro, se vogliono gliela consegno. Tu Vincino, che hai ancora il conto al Montepaschi, se non sbaglio. Sì. Ah, assolutamente, devo dire. Poi ti racconto una cosa. Dicela subito. No, va bene, no, niente, insomma, per ora io e il Montepaschi andiamo di perfetto amore e d'accordo. Ecco qua. Questa settimana speriamo di concludere proprio un nostro, come dire, nozze d'oro quasi, no? Non ne posso parlare perché c'è la privacy, mi dispiace per loro, la loro privacy, la loro privacy. Anche il Montepaschi c'ha la sua privacy. Poi dopo, quando ho scoperto che il tesoro nostro italiano c'ha un salone immenso pieno di derivati alla parete di 8, 10, 20, 30 miliardi, 100 miliardi. Cioè ma come... no, l'hanno smentito. Ma non è vero, loro da 20 anni controllano tutto il bilancio italiano, c'è sempre uno della Banca d'Italia o come Ministro del Tesoro o come Presidente del Consiglio o come Presidente della Repubblica, per cui loro, paf, hanno da 30 anni il controllo totale. Noi siamo in mano a come? E fanno tutte le cose senza dirci come dice Brunetta, poi, l'ha detto anche da noi due giorni fa, a guardare bene, a leggere bene tutte queste cose, e si impressiona la una sì. due volte che ci è andato. Ce l'ha detto anche due giorni fa, ha detto è opaco il ministero. No, ma lui però ce l'ha un po' su, perché voleva farlo lui il ministero dell'economia, dai, il ministero dell'economia. Questo assolutamente non è che questo, ma lui da sempre vuole fare tutto, ma non ci riesce mai, vabbè. Però la cosa è, come dire, è drammatica, eh. No, è chiaro, chissà se ci sono questi derivati. Senti, allora, no, cosa ci sono. L'ha detto il Financial Times, mica il Sole 24 Ore. Ho capito, l'ha detto il Financial Times. No, allora, come mica il Sole 24 Ore? Come ti permetti? No, il Sole 24 Ore è il primo giornale che ho sempre letto in tutta la mia vita. Ecco, più del Corriere. Lo portava a casa, guarda, quanto mi piaceva per il suo colorino. Guarda, il mio desiderio tutta la vita è stato lasciare il Corriere e andare al Sole 24 Ore. Ti giuro, solo che non ce l'hai fatta. Cioè, non ce l'hai fatta. No, volta abbiamo un attimo chiacchierato e ho detto, guarda, ma sei sicuro che ti va bene? Non lo so, era quello là, quello in camicia bianca e cravatta nera. No, vincino al Sole 24 Ore, vincino al Sole 24 Ore non si può fare, non si può fare. Il peggior direttore. No, smettila! Allora, andiamo a sentire Mario Monti, senti qui Mario Monti, ieri ad Agora. In Europa e al di là, diciamo, a me basta varcare il confine per essere così riconosciuto che non verrebbe più voglia di tornare in Italia. Vabbè, questo però è il vecchio Nemo profeta. Ma no, Monti, dai, ma queste sono le classiche battute che poi la gente dice, ma stacci all'estero, stacci. Lui è... Da quando ha perso le elezioni, dal giorno prima era tutto, io sono il migliore, al giorno dopo è crollato. È depressissimo. Ma uno lo guarda lontano e dice, questo è depresso. No, in realtà però, dice, io ridendo un po' così, dice, io basta che varco il confine e sono talmente amato, talmente che non verrebbe voglia di tornare. Però gli rode dentro tutto perché gli rode dentro. Anche lui, no? Non l'ha mandata giù questa sconfitta. Ma qual è quella legge che uno sempre arriva a dove può non può arrivare mai, Che la legge della incompetenza, no? Uno alla fine arriva sempre a un momento in cui poi in realtà è incompetente totale, e quindi è... Ma no, dai, adesso va così, Vincino oggi si è svegliato, deve stroncare tutto. Troppo filosofico. Non c'è neanche Paolo Del Debbio qui, no? Che è il filosofo. È questo che mi manca. Il filosofo vero. Senti sempre Monti su Renzi, senti una definizione che Monti dà di Renzi, una cosa subito. Gli hanno detto, ci dica Renzi come lo definirebbe? Ci dà un aggettivo per descrivere Renzi? Velocemente simpatico in attesa di realizzazione piena. Vabbè, questo è... Lascia aperto tutto. Che vuol dire? Lascia aperto tutto. Cioè vuol dire simpatico. Come ha fatto per tanti anni in Europa, non ha mai detto niente in realtà, si lasciava aperto sempre tutto, era amico di quello, amico di destra, amico di sinistra, amico di centro, amico di banca, amico di sopra, amico di tutti. 24 mattino. Lei si è lamentato perché il governo vorrebbe favorire coloro che hanno la terza media e una famiglia a carico. È giusto, non dobbiamo sempre pensare a coloro che ci sono laureati. Sai quanti laureati la laurea se la sono comprata? Sai quanti diplomati sono stati raccomandati a calci in culo, signor Milan? Voi ricchi, voi giornalisti che prendete 200-300 mila euro al mese, non capite che significa essere disoccupati. Ciao Alessandro, volevo dirti, a posto di parlare delle vacanze a scocco, perché non hai parlato del reddito di cittadinanza che è stato bocciato? Buongiorno Milan, ci sono delle piccole tasse che sfuggono all'italiano medio. Ieri per esempio hanno aumentato i bolli sanitari che si devono mettere su tutte le ricevute mediche. Io faccio la fisioterapista e quindi anche sulle mie. Da 1,81 a 2 euro. Ma quel genio dell'ex ministra Fornero che ci dice che non abbiamo capito la sua riforma perché non l'abbiamo letta. Abbiamo fatto di più che leggerla. L'abbiamo provata sulla nostra pelle. È tutta da buttare nel cesso. Ho smesso di fumare perché costava troppo. Ho dei problemi, ho detto mi prendo la sigaretta elettronica. Mi è stata consigliata anche dal cardiologo. E adesso mi ritrovo che questi coglioni hanno messo una tassa. Altro che Forcone, Milan. altro che forcone, di più, basta un via e partiamo tutti e gli facciamo fuori. Ma come cazzo fate a tassare la sigaretta elettronica? Ma come cazzo fate? Ma avete rotto le palle con la sigaretta normale che mi veniva il cancro ai polmoni, cancro a qualsiasi parte del corpo. Finalmente sono 6 mesi che non fumo più una sigaretta e voi me la tassate. Ma siete deficienti. Ma va a cagare Italia di merda. Questo, caro Vincino, è l'editoriale del nostro ascoltatore che ha lasciato un messaggio alla segreteria telefonica, io ricordo 0246524492. Poi c'è quella che ha detto, cos'è che guadagniamo? È il nostro amico Bastiano da Foggia, mi chiama sempre, mi lascia sempre dei miei messaggi. 200-300 mila euro al mese, ma Bastiano da Foggia, ma io dico, ma 200-300 mila euro neanche all'anno, che già è un sogno, al mese. Ma chi sono? Messi, Cristiano Ronaldo, Balotelli, ma è così, che lo potevamo dire poi. Ma quel cardiologo che consiglia sigarette elettroniche? Se magari se uno dice non fumo 60 sigarette al giorno, dice beh, signora, allora fa l'elettronica. Signora, che deve fare? Però effettivamente poi ci vedi il bollo sanitario, cioè c'è un'Italia che viene fuori da queste cose, il bollo sanitario da 1,81 a 2 euro, questa dice sono 19 centesimi per me, ma pensate quanti bolli si fanno in Italia, no? Ogni giorno ci sono anche apposta dei ministeriali, dei ministri che pensano a questi 0,5 centesimi. Certo, è come lo dicono, 5 centesimi. Aumentiamo. Ma quello sta male, sta morendo, deve fare la cosa, ma 5 centesimi di puntare in più. Quell'altro che, ma sono di una perversione, come dire, aboliamo le regioni e via, no? Ecco. Le regioni sono molto meglio abolire le regioni delle province. Sì. Vincino fa questa battaglia solitaria, è lui e il busto di Andrea. La seconda battaglia solitaria è quella per tenere il Senato. Tenere il Senato. Assolutamente, cioè qual è il problema? La doppia lettura. Teniamo solo la doppia lettura per la fiducia e basta, e poi le Camere si mettono d'accordo e via, ogni volta ne fa uno solo e tac. Un piccolo regolamento interno di economia ed è fatto, però la bellezza dei vecchi senatori. Perché è sempre lì il busto di Andrea. Che fine ha fatto il busto di Giulio? Sta sempre là, devo dire, ora devo forse diminuire il prezzo, guarda, faccio come da 100.000 a 98.000. Sì, perché l'aveva messo all'asta, un'asta virtuale, 100.000 euro per comprare il busto di Andreotti. Ora uno che tiene si tiene Andreotti di Marma a vita con tutta la storia, gli mando tutte le copie del giornale, che ci sono 5 o 6 numeri del giornale dove ne abbiamo parlato, 5 o 6, il testo del comizio di Benigni, pure il video ci posso dare tutto questo per 98.000 euro il prezzo. 90, facciamo 90, 90 oggi. Se viene con la copia del Sole 24 Ore glielo faccio a 88 va bene, e siamo arrivati meno di 88.000 euro effettivamente, perché pagare 110 a ottobre novembre e poi dare 88.000 euro al busto, 200.000 al mese quanto sono? No, guadagniamo 1 miliardo all'anno. In realtà ha detto 200-300 mila, quindi potrebbe essere anche molto. 2 per 10 12, no, sono 3 milioni, 3 milioni, 3 milioni. Devi pagare il 110% di cioè. Se fossimo in Francia è il 70, per cui ce ne va anche peggio, no? siamo al delirio Depardieu, vado con Depardieu, sì, esatto. Tutti in Ecuador, prendiamo... no, quello che sta poveretto dell'aeroporto di Mosca, sì quello che viene da Cracovia, come il nostro eroe, sì. Ed Snowden. Snowden, questo basta, è un eroe, è partito, è partito vicino, è partito vicino. Allora Vincino, ascolta questo, l'onorevole cittadino deputato Uno Vale Uno Di Battista del Movimento 5 Stelle parla degli F-35 e attacca il Partito Democratico e dice hanno fatto una mozione che è una roba così. Noi ce la prendiamo con il Partito Democratico, il partito delle deroghe infinite, le deroghe ai propri ideali. Il partito derogatico sarebbe meglio chiamarlo, il partito democratico, il partito delle promesse violate, dell'ipocrisia, l'ho detto 3 volte.

Le 8 e 17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, vogliamo parlare di questa IVA che è stata rimandata, l'aumento dell'IVA che era previsto per luglio è stato rimandato per 3 mesi. Ci sono delle polemiche, delle discussioni sulle coperture, anche sulle tasse, una cosa per la quale tutti gli italiani sono molto molto sensibili. Ne vogliamo parlare? Cominciando con il sottosegretario dell'economia, è un senatore del Popolo della Libertà, Alberto Giorgetti, che saluto. Buongiorno sottosegretario. Buongiorno a voi. Allora, intanto le chiedo questo: ieri il premier Enrico Letta al Consiglio europeo ha detto chi dice che abbiamo aumentato le tasse dice il falso, sostiene il falso. Anche lei sottoscrive questa frase, perché a me ha fatto un pochino sobbalzare, sottosegretario. Ma diciamo che dal punto di vista della pressione complessiva è vero che non vengono alzate le tasse, dal punto di vista della necessità da parte di contribuenti e imprese di aumentare il versamento dell'anticipo non c'è dubbio che questo è avvenuto, quindi insomma mi pare che il tema dell'anticipazione dia ragione a Letta nella sostanza. Dal punto di vista invece di ciò che accadrà, e quindi concretamente, è evidente che nei prossimi appuntamenti bisognerà avere sempre qualcosina in più, però chiaramente è un anticipo maggiore rispetto al dovuto. Sì, quindi il totale sarà sempre, uno paga prima, paga prima e paga sempre quello, certo, di prima, e insomma, pagherà meno dopo. Però mi scusi, esatto. Oggi Sergio Rizzo sul Corriere della Sera nell'editoriale scrive: è chiaro che anticipando il pagamento delle tasse sui redditi non ancora maturati, questo causerà inevitabilmente un problema nei conti del giugno dell'anno prossimo, visto che se si pagano prima, poi al giugno dell'anno prossimo ci troveremo ancora a dire adesso non incassiamo più quello che abbiamo già chiesto 7 mesi prima con l'aumento degli acconti. Ma questo potrebbe essere vero nella misura in cui nell'anno prossimo non ci fossero dei cicli economici che aiutano la ripresa, perché le tasse non devono essere intese solo come ovviamente IRPEF, IRES, IRAP, ma per esempio l'IVA, le accise risentono dei consumi anche temporanei, quindi da questo punto di vista dobbiamo essere positivi, perché se non c'è ripresa è evidente che bisogna inventarsi soluzioni che vadano a determinare ulteriori prelievi o altre forme di copertura per quello che riguarda risparmi di spesa, difficilmente credibile, ma altre forme di copertura su cui stiamo lavorando e che probabilmente serviranno per prorogare ulteriormente l'IVA. Altrimenti, come è l'auspicio di tutti, parrebbero le previsioni, il fatto che ci sia una leggera inversione di tendenza dovrebbe aiutarci ad avere altre forme di entrate che vadano a rendere non necessari inasprimenti sul versante, sì, ovviamente del conguaglio. Beh, certo, poi c'è la lotta anche all'evasione, però perché, sottosegretario, non si riesce, dice, è difficilmente aggredibile la spesa pubblica? Abbiamo 805 miliardi, la gente si chiede, ma com'è possibile che non si trovino lì 4 miliardi sulla spesa pubblica? Cameron ne ha appena tagliati, ha fatto un programma per tagliare altri 11 miliardi di sterline, quindi 13 miliardi di euro. In Italia sembra che la spesa pubblica non si riesca mai a toccare. Ma guardi, io prenderei molto la congiuntura in cui ci troviamo, io segno molto responsabilità a questo, avendo seguito direttamente e discusso più volte insomma con la maggioranza e con il ministro sugli aspetti tecnici di queste coperture. La realtà è che sul versante delle spese oggi ci troviamo a fine giugno e quindi è difficile rimodulare una spesa che non sia fatta inizio anno nei confronti di amministrazioni che hanno organizzato la propria attività, che hanno secondo semestre, che è difficilmente modificabile o comprimibile dal punto di vista del funzionamento e quindi del taglio delle spese vere e proprie. La seconda considerazione è che, e quindi potremmo ovviamente fare, dovremmo fare questo lavoro in previsione della legge di stabilità, che comunque ricordo a tutti sarà fra 3 mesi. Sì, in autunno. Quindi questo impegno sul taglio delle spese resta. Dobbiamo anche dire che poi avevamo il problema della chiusura definitiva della procedura di infrazione comunitaria relativa, sì, al appunto allo sforamento, e da questo punto di vista non dobbiamo dimenticare che l'Europa ha puntato sull'aspettativa dell'aumento dell'IVA un punto fondamentale, sì, di questa chiusura. Quindi l'Europa si aspettava che ci fossero delle coperture che fossero tecnicamente riconosciute valide ed efficaci. Ecco, però, sottosegretario, lei dice, per tornare appunto al tema della copertura, le tasse, diciamo, ci ha spiegato, gli acconti non sono considerabili proprio tasse, però molti ascoltatori ci hanno segnalato, anche in segreteria, abbiamo una segreteria telefonica, che per esempio sono aumentati i bolli sanitari, quelli da 1,81 sono passati a 2 euro, i bolli da 14,70 a 16 euro, i bolli per i certificati di matrimonio, insomma sono aumentate una serie, quelle cosa sono? Tasse, voglio dire. Guardi, ma non c'è ombra di dubbio, su questo sì, dobbiamo anche dire che rispetto alle cose che sono state fatte fino adesso sono una percentuale assolutamente ridotta, è l'unico vero elemento in cui l'arrotondamento di questi bolli, di queste varie piccole gabelle, di fatto ha determinato delle entrate che si aggirano stimate, insomma, intorno ai 50-70 milioni di euro. Detto questo, che questa è una verità assoluta, hanno ragione i radioascoltatori, bisogna anche tenere conto del fatto che rispetto alla manovra e agli interventi che sono stati fatti nel complesso nei primi 50 giorni del governo, rappresentano l'unica vera forma di prelievo aggiuttivo, sul resto non è c'è l'arrotondamento. Beh, poi c'è il grande tema, noi ne parleremo, poi approfondiremo dopo le 8.30 quando salutiamo, sulle sigarette elettroniche. Ecco, questo molti cittadini italiani proprio non l'hanno capito, perché tassare la sigaretta elettronica, che è un qualcosa che molti imbracciano, addirittura qualcuno ci ha chiamato dicendo ma il cardiologo mi ha suggerito di farlo, perché lasciando la sigaretta tradizionale, quella che comporta rischi per la salute, quindi costi per la salute pubblica, per la sanità pubblica, uno va alla sigaretta elettronica. E cosa avete fatto? L'avete tassata? Cioè è come tassare un consumo perché va di moda? No, guardi, non è proprio questo. Non dobbiamo dimenticare che innanzitutto sul tema della sigaretta elettronica si è trattato di un nuovo prodotto che va a inserirsi direttamente in un mercato che si conosce, che è quello comunque del tabacco, del consumo del tabacco e delle sigarette, e che è un mercato che è fortemente tassato e fortemente regolamentato. La sigaretta elettronica è tuttora in fase di test, e come lei sa, ci sono, come sanno i radioascoltatori, varie opinioni e vari giudizi scientifici, appunto, sulla validità o meno, appunto, in materia sanitaria, sì, della sigaretta elettronica. Ecco, ma siccome non si sa ancora se fa male, in genere le tasse sull'alcol, le sigarette e il tabacco si mettono perché fa male, quindi si disincentiva. In questo caso non si sa ancora, però la tassa è già arrivata. Non è proprio così, nel senso che sull'alcol sicuramente non c'è una tassazione perché l'abuso possa fare male. Quindi sicuramente per la sigaretta si risente di un regime fortemente legato ovviamente a disincentivo nei confronti dei danni alla salute. La sigaretta elettronica utilizza, tra le varie sostanze, anche sostanze che sono di pieno utilizzo delle sigarette, che però sono sottoposte a un regime ovviamente molto più controllato e regolamentato. Quindi nel momento in cui si vende anche la nicotina, da questo punto di vista c'era la necessità di fare un intervento che andasse a riequilibrare, sì, la forma di prelievo su questo. Quindi lei esclude che diciamo si sia fatto un calcolo proprio molto utilitaristico a dire molti italiani passano alla sigaretta elettronica, dobbiamo recuperare dei soldi anche da lì. Beh, guardi, allora, che gli italiani possano ovviamente scegliere, come giusto che sia, qual è il prodotto che vogliono utilizzare per il meglio, è una giusta e libera facoltà. Da lì a dire che l'utilizzo di nicotina attraverso un nuovo dispositivo non possa essere assimilabile al prodotto da fumo è una scelta evidentemente che il dibattito scientifico rimanda nel tempo, ma su cui lo Stato non può far finta che non ci sia la necessità di prendere una posizione attraverso una forma di tassazione diversa, che, attenzione, comunque non andrà evidentemente a sostituire integralmente la tassazione sulle sigarette, anche perché altrimenti questi prodotti verrebbero dal punto di vista fiscale appesantiti appunto tale da essere poco interessanti. Quindi comunque si tratta di un, diciamo, riequilibrio parziale rispetto a un'interpretazione sul tema del prodotto da fumo che è un atto di equità, prelievo, nulla di più. Cioè, sull'accisa della benzina invece c'è anche il Sole 24 Ore, raccontava una parte anche quella è un'altra cosa, senatore Giorgetti, che gli italiani veramente non capiscono. Quando si deve fare qualcosa, una mini accisa sulla benzina c'è sempre, no? Tanto la benzina la usiamo tutti. Ma guardi, non è più così. nel senso che l'accisa sulla benzina in realtà oggi non consente più di avere dei prelievi aggiuntivi. Non dobbiamo dimenticare che tutte le accise oggi, dalle sigarette alla benzina, alle oli combustibili vari, quindi in questo momento sono tutte in negativo perché risentono della flessione dei consumi. Quindi in questo momento innalzare l'accisa sul tabacco piuttosto che sulla benzina o su diciamo tutto il panorama complessivo di intervento su versante accisa non significa fare entrate in più per lo Stato, ma significa in questo momento abbatterle di più, e infatti non sono state aumentate le accise in questo provvedimento proprio perché non c'è più la possibilità di avere introiti aggiuntivi, ma c'è la difficoltà di confermare quelli che già sono previsti in legislazione. Allora, le ultime due domande sono queste, una strettamente politica. Ha sentito Brunetta, lo ha detto ieri al Financial Times, ma l'altro ieri lo ha detto qui a questi stessi microfoni, in questo stesso orario, ha detto al Ministero dell'Economia c'è un'opacità totale, non si sanno neanche qual è l'ammontare del debito pubblico. Lei che insomma, è collega di partito, ma è anche sottosegretario all'economia, che risponde a Brunetta? Ma guardi, io sono amico di Renato, professor Brunetta, da tempo, e quindi lui è sempre, diciamo così, molto forte nelle sue dichiarazioni. Io non credo che ci sia affatto opacità. Oggi esiste un debito pubblico di cui sappiamo il monte complessivo, di cui abbiamo un pieno controllo, e grazie a Dio i mercati ancora oggi accettano bene e credono nella possibilità che lo Stato riesca progressivamente a ridurre e onorare il debito, quindi da questo punto di vista non c'è opacità. Dopodiché il vero problema è tutto politico, ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, e cioè le coperture utilizzate in modo tradizionale che l'Europa ci chiede, perché di questo si tratta poi alla fine, non è che noi ci inventiamo delle coperture per dare fastidio alla gente, è evidente che c'è oggi una percezione in Europa e una sfiducia sostanziale sul fatto che si possano adottare tecniche da parte dell'Italia che vadano progressivamente nel versante delle riforme, sul versante della riduzione della spesa e l'altro. Quindi c'è una attenzione, diciamo così, particolare. Noi vogliamo progressivamente ridurla, eliminarla prima, chiudendo la procedura di inflazione, come sta avvenendo, e poi attraverso un'altra serie di provvedimenti che noi stiamo già preparando, rilanciare con nuove forme di copertura che riguardano le concessioni pubbliche, che riguardano risparmi in alcuni settori, che riguardano incentivazioni. Una ristrutturazione più... determinare nuove, diciamo così, entrate, perché l'altro problema, scusi se la proprio un secondo in più, ma credo sia importante, è che noi, per esempio, l'IVA determinata dal pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, al momento non l'abbiamo scontata a bilancio e non la sconteremo. Perché? Perché c'è un'interpretazione diversa tra Eurostat e l'Italia sulle entrate e sugli effetti indotti rispetto alle manovre che andiamo ad adottare. Capisce che questo problema diventa cruciale nei prossimi giorni. O riusciamo a liberare le risorse che noi abbiamo già in cassa e che non possiamo spendere, riusciamo oppure a contare questo è un problema. Di ritorno di crescita oppure diventa. Ho capito, ma una risposta all'Europa è quella di rimandare di 3 mesi, poi al 1 ottobre chissà cosa succederà. Cioè... Guarda, io sono convinto che di qua al 1 ottobre, parlavo di forme di copertura, fra virgolette, anche innovative, riusciremo ad avere un pacchetto in una condizione di dialogo con l'Europa migliore, perché la procedura sarà definitivamente chiusa. Un pacchetto di coperture che ci consentirà di poter traslare ulteriormente l'IVA e spero definitivamente evitare di formarla. Va bene, questo è un segnale di ottimismo, speriamo, perché l'idea dei cittadini italiani insomma, è che si faccia un po' le cose di 3 mesi in 3 mesi per cercare di tirare avanti. Ecco. Intanto la ringrazio, sottosegretario, per essere stato con noi. Grazie, grazie a voi, Alberto Giorgetti. Buona 24 mattino. Allora, alle 8.37 minuti, dopo aver avuto il sottosegretario dell'economia Alberto Giorgetti, insomma Enrico Letta ieri ha detto che non sono aumentate le tasse, in realtà quei bolli, quegli arrotondamenti, come ha detto Giorgetti, effettivamente porteranno 50-70 milioni, qualche tassa è stata messa invece sulle sigarette elettroniche. Voglio salutare, è stato già nostro ospite, ne abbiamo parlato un'altra volta, Massimiliano Mancini, che è presidente dell'Associazione Nazionale Fumo Elettronico. Buongiorno Massimiliano. Mancini, e ben ritrovato. Buongiorno a voi, buongiorno. Che ha ascoltato, immagino, il sottosegretario Giorgetti. E saluto anche Leonardo Facco. Buongiorno Facco, anche lui nostro ospite in passato, amministratore del Movimento Libertario. Facco, eccoci qua. Buongiorno a voi. Oggi è caporedattore del quotidiano L'Indipendenza. Allora, Mancini intanto ha ascoltato la convinta al sottosegretario. Vabbè, la convinta. Voi adesso avete a che fare con questa tassa, quindi un po' arrabbiati lo sarete. Diciamo che la tassa secondo noi è aberrante, nel senso che non si riesce a capire qual è l'impianto logico che ha portato a questi numeri. E il sottosegretario ha menzionato il fatto che hanno dovuto equiparare la tassazione della sigaretta elettronica a quella del tabacco, forse dimenticando che la tassazione sul tabacco è stata sviluppata in decenni. E qui invece si prende una tassa di quasi del 60% e viene applicata tout court su un prodotto nuovo che sta diffondendosi, che sta nascendo appunto, sta creando e forse il problema è proprio quello, anche se il sottosegretario ha detto no, non è che noi, siccome un prodotto è di consumo, se no uno dovrebbe tassare se tutti passassero alle caramelle per fare il surrogato delle sigarette, lo tassiamo le caramelle. No, questo no. Ma però diciamo che oltretutto la tassazione è stata sviluppata senza neanche prendere in considerazione le specificità del settore, senza interpellare gli addetti ai lavori, quindi è come se a noi avessero chiesto di strutturare, che ne so, un sistema di tassazione per coloro che producono l'avionica dei cacciabombardieri, cosa di cui non sappiamo niente, e quindi se ci fossimo messi a creare una tassa avremmo fatto solo danni. Come questa tassazione andrà a fare nel comparto del fumo elettronico? Per il semplice motivo che è una tassa che è sparata a 360 gradi, quindi una batteria di una sigaretta elettronica costerà il 60% in più, mentre il negozio a fianco che la vende di stessa forma e ci attacca una lampadina avrà la batteria che costerà praticamente il 60% in meno. Ecco, ci spieghi un attimo, visto che voi siete i produttori, e quanto inciderà, cioè sa che molti italiani sono fruitori adesso di questa sigaretta elettronica, quanto inciderà in maniera negativa sul prezzo? Ci ha già detto il 60% in più costerà che cosa? Perché come è strutturata adesso la proposta, tutto ciò che fa la sigaretta elettronica dovrà costare il 58% in più. Tutto a carico del consumatore. Tutto a carico del consumatore. Quindi cosa significa? Significa che il 60-70% dei negozi che adesso stanno operando nelle sigarette elettroniche avranno grossi problemi, molti dei quali potranno anche chiudere. Uno, perché in questo momento la campagna mediatica negativa che attacca il sistema sigaretta elettronica è pesante, quindi ha scoraggiato nuovi consumatori. Due, ovviamente chi era in fase di raggiungere il famoso break-even, cioè il ritorno dell'investimento iniziale, adesso c'ha questi costi, avrà problemi ancora maggiori. In più, un altro problema che si verrà sicuramente a creare è che con internet è facilissimo comprare gli stessi articoli dall'estero, quindi colui che non vuole spendere 9 euro per una ricarica di liquido li compra online francese, vabbè, questo purtroppo è un po', voi capisco dal punto di vista italiano la difesa della categoria, questo dal punto di vista del consumatore è il bello, diciamo, del mercato libero, non è un problema di mercato libero, no, dell'accessibilità, voglio dire, sicuramente, però il fumo elettronico è stato portato in Italia e fatto conoscere ai consumatori tramite il lavoro capillare dei negozi che si sono presi l'onere di spiegare, di diffondere questa tecnologia. Quindi questa tassa qui sostanzialmente danneggia un comparto economico che sta facendo nel suo picco da volano l'economia nazionale, un comparto economico che ha una potenzialità immensa sul futuro, dove l'Italia sta esprimendo delle eccellenze nella produzione dei liquidi, perché portiamo in paesi d'Europa, certamente. Quindi qui abbiamo un bambino che potrebbe diventare un genio, ma cosa facciamo? Lo ammazziamo nella culla. Allora, si fermi un attimo, Mancini, è stato molto chiaro. Allora, Leonardo Facco, due dati: fisco a record al 53,5%, ormai, ieri ha detto il centro studi Confindustria, e Enrico Letta da Bruxelles, dal Consiglio europeo, ha detto: chi ci dice che abbiamo aumentato le tasse dice falsità. Facco. Beh, io ho ascoltato prima la sua intervista al sottosegretario, voglio dire, è stata una cosa imbarazzante, ma veramente imbarazzante, perché a fronte delle sue domande alle quali dicevano: no, ma scusi, ma è aumentato anche il bollo, è aumentato questo. Si è arrotondato il bollo, ha detto. Arrotondamento. Attenzione, cioè, voglio dire, piantiamola con queste discussioni. Qui ci troviamo di no, dico, usavo il termine del sottosegretario, l'arrotondamento del bollo. È talmente imbarazzante da lasciare di stucco, voglio dire. Qua ci troviamo ancora una volta di fronte al fatto che, come sempre, la strada seguita è la stessa. Il paese ormai non ha alcuna possibilità di salvarsi, questo è pacifico ormai. Finalmente qualcuno comincia a dire che la pressione fiscale è elevatissima. Io non sono d'accordo con lei, non è al 53% la pressione fiscale, varia tra il 70 e l'85% la pressione fiscale in questo paese, a seconda se si è persone fisiche oppure piccole aziende o grandi aziende, eccetera. La vera pressione fiscale è quella. Con questa manovra, noi purtroppo non eravamo ancora riusciti a dimenticarci di Monti, con questa manovra ovviamente si continua ad andare in quella direzione. Allora la domanda è questa: come si può continuare in questo modo? Se si guarda, si sente parlare ogni giorno di tentativo di sviluppo, di far crescere, di dare la possibilità di lavorare, ogni volta in questa direzione si fa esattamente il contrario. Il caso delle sigarette elettroniche è emblematico e risponde a quella logica, no? Secondo cui i politici, quando c'è un'attività che si sviluppa molto, devono regolamentarla. Se si sviluppa ancora un po' la tassano, ed ecco l'arrivata, e ovviamente se questa attività tassata poi comincia ad avere problemi, la sussidiano con i soldi dei contribuenti, quindi aumentano ancora le tasse. Cioè, siamo di fronte veramente a delle persone insensate. Io mi limito oggi ad usare degli eufemismi. Ha ragione, secondo lei, ieri Cameron. Allora, è successo questo: Cameron, che due giorni fa ha previsto con il suo cancelliere una revisione della spesa pubblica in Gran Bretagna per 11,5 miliardi di sterline, ieri ha detto, quando gli ha chiesto subito al Consiglio europeo, no, bisogna aumentare e anticipare i soldi ai giovani, anche noi dell'Italia, e Cameron ha detto, no, scusate, fate come me, tagliate la spesa pubblica. Sopravvivete con i risparmi sulla spesa pubblica e poi ne riparliamo. Poi vabbè, c'è stato il balletto, lui voleva dei sussidi all'agricoltura, glieli hanno dati, eccetera. Però io in questo momento mi sono sentito un po' British. I am Alessandro Milan, here we are, Leonardo Facco, President of Movimento Libertario, Mancini. Cioè, come si fa a non dare ragione a Cameron che va o no? O sbaglio? Ma sono assolutamente d'accordo, voglio dire, in fondo è proprio quello l'argomento vero, il taglio della spesa. Cioè, non si possono abbassare le tasse se non si tagliano le spese. Questo è il punto fondamentale in un'economia statale. E noi sentiamo parlare di taglio delle spese da una vita. Prendiamo il caso Bondi, no? Bondi era stato messo da sto genio di un tecnico che è Monti a fare 440 miliardi, adesso 400, non mi ricordo esattamente la cifra. Ha tagliato una cifra ridicola, 500 milioni o 50 milioni, e tutto è rimasto lì. Ci ha detto il sottosegretario Giorgetti, Giorgetti poco fa, però non possiamo a giugno fare i conti con i bilanci già previsti. Certo, quando bisogna tagliare dal giorno alla notte le pensioni, vabbè. Milan, ogni volta non una scusa, voglio dire, questi quesiti quando li senti parlare se li inventano ogni volta. Torniamo al discorso spesa. Il vero problema è quello. Il guaio è che tagliare la spesa è un atto politico di coraggio, perché significa tagliare le clientele. Qui non abbiamo politici coraggiosi, perché ci sono quelli di centrosinistra che hanno le loro clientele, quelli di centrodestra che hanno le loro. Ma se non si fa adesso, con la grosse coalizione alla tedesca, con le larghe intese, dove non c'è un'opposizione, non c'è un'opposizione a parte il Movimento 5 Stelle, Sella, non c'è un'opposizione forte che può far cadere il governo, cioè ci sono i numeri per fare tutto quello che vogliono, ci sono i numeri per una volta. Milan, sono le stesse parole che io sentivo dire quando c'era il governo tecnico. Ma se non si fa adesso, coi tecnici, il governo tecnico retto da tutti e due, capisce? Lo so. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, va, che è meglio. Eccoci qua allora con Leonardo Facco e con Massimiliano Mancini. E senta, Mancini, però le vorrei chiedere questo: voi non è che potevate pensare di scamparla? Adesso non stiamo a fare la discussione, io non sono uno scienziato, non sono un medico, so che c'è tutta una diatriba se la sigaretta elettronica sia comparabile oppure no alla sigaretta normale, però un qualcosa della sigaretta, se non altro per il nome, qualcosa assimilabile c'è, e quindi in qualche modo una forma di tassazione, se c'era di là, non potevate pensare di scamparla anche di qua? Forse è stata troppo brutale, subito e senza discussioni, questa è la vostra lamentela? Esattamente, diciamo, noi abbiamo sempre dichiarato pubblicamente che le proprie di una tassazione era accettabile nel momento in cui una tassazione equa, bilanciata, soprattutto ragionata, nel senso che chi fa queste cose dovrebbe conoscere questo mercato, dovrebbe tenere a mente che è un mercato che sta nascendo, quindi ha bisogno di essere sviluppato e incentivato per poter diventare poi un mercato effettivamente di massa e poter contribuire in maniera fattiva al bilancio dello Stato. Cosa che qui non è stata fatta, qualcuno si è svegliato al mattino e ha detto ma sì, facciamo il 58,7%, così raschiamo il barile, tiriamo su ancora un centinaio di milioni. Sai cosa dovete fare adesso? Dovete fare queste attività vere di lobbying, no, perché tutto adesso deve essere convertito in Parlamento, dovete andare lì a dormire, sai come fanno i veri lobbyisti? Allora, a dormire nelle anticamere certo. del Parlamento, a incrociare i parlamentari e dire ehi tu sai cos'è la sigaretta elettronica? Esatto, la NAPE sta organizzando adesso una manifestazione a Roma, sicuramente è nei tempi molto brevi, l'attività di lobby, quindi di contatti con le istituzioni è già in essere da svariati mesi, certo. Quindi stiamo cercando di far sentire la nostra voce nella maniera più completa e più chiara possibile, si deve fare così. Di fronte a decisioni prese in altre sedi, prese al governo, ma adesso deve essere convertito in Parlamento o lo stesso... Abbia pazienza, ma mi sembra possibile che si discute un argomento del genere? No, d'accordo. In considerazione l'opinione però avete un'apertura, perché il premier Enrico Letta ha detto esplicitamente se il Parlamento trova un altro modo per avere le coperture, ovviamente rispettando sempre il 3%, il deficit, PIL, che non si, i parametri europei eccetera, ma se si trovano altri modi ben vengano, ecco, il Parlamento è sovrano. Quindi... il signor Facco ha detto una cosa giusta, questo paese è probabilmente irrecuperabile, bisognerebbe invitare probabilmente alcuni nostri politici a salire in macchina, fare un giro per le strade della città e andare a vedere la quantità di capannoni, uffici e attività industriali che sono in vendita o in affitto. Magari dare un'occhiata alla qualità dell'asfalto che c'è in questo paese. Oppure lo vedono, ma no, non è che non fanno finta, non hanno le soluzioni, e questo è il dramma, non so, Facco, la mia sensazione, il dramma è della politica, è che in parte non riescono, evidentemente è tutto incrostato, per cui non si riesce a prendere una decisione politica che è, come diceva lei, la questione per esempio del taglio della spesa pubblica. Senza ombra di dubbio, questo è ovviamente un sistema che si è incancrenito, quando tu crei tantissime clientele, tantissime lobby, chiamiamole così, visto che lei citava quelle, in cui gli interessi si scontrano gli uni con gli altri, i soldi sono sempre quelli dei contribuenti, questa è la situazione. L'interlocutore diceva un'altra cosa interessante sul fatto della recessione, delle chiusure. No, ma c'è un fatto, lei ha detto dei politici che non hanno il coraggio, cioè, ma questi non hanno idea di che cos'è la vita. Questi non sanno, come diceva Sturzo, cosa significa gestire la bottega di un ciabattino. Non ne hanno idea, mi creda Milan, mi creda, io ho fatto l'imprenditore, adesso ho smesso perché in questo paese non do più un centesimo, ma questi non hanno idea di che cosa voglia dire fare l'imprenditore, cioè che cosa significa confrontarsi con un ufficio pubblico, che cosa è realmente la burocrazia, che cosa significa. Oggi torna il burocratese, oggi legga Francesco Merlo che scrive su Repubblica, hanno abrogato la norma del parlare chiaro, torna il burocratese, che è il linguaggio. Sì. Ma io guardi, capisci? E quindi tutte queste cose, sommate ovviamente a quella che è l'arma di distruzione di massa, no, per dirla con Mises, che sono le tasse, mi dispiace dirlo, questo paese non ha futuro, e qui altro che soltanto l'evasione fiscale, qui ormai c'è l'evasione in massa, cioè se ne vanno via da questo paese, e se ne vanno via i migliori. Cosa vuol dire che non dà più un centesimo a questo paese? Ma le tasse lei le paga? No, ma basta, io ho chiuso tutto, ogni attività, cioè, pago tutte le tasse indirette, cosa vuole che le dica? Ah, vabbè, sì. Ogni volta che si va a fare la spesa, ok. Quindi io ho smesso di fare impresa, ho smesso di lavorare in questo paese. No, pensavo avesse smesso di fare proprio di pagare le tasse, cioè non produco più. Ma quello ogni volta che posso lo faccio, Mila, lei lo sa, no? Ecco, lo sapevo. Vabbè, ma adesso l'elogio dell'evasore Leonardo Facco. Ecco, mi subisseranno di mail, eccetera. Ma come? Facco si sente un evasore fiscale? Sì, e lo rivendica. No, io ho sempre detto, qui sono 4 anni che non voglio raccontare queste cose, insomma. Il discorso è semplice, quando non esiste il buon senso in un sistema come il nostro, cioè, basterebbe conoscere l'affer, no? Uno dice, fino a un certo punto le tasse le pago perché vabbè, ritengo giusto dover dare una parte dei miei soldi per avere dei servizi, benissimo, ma ormai il problema è che quel limite è stato ampiamente superato e come risposta, anziché servizi, abbiamo disservizi, ora mi dica lei, vede, io non appartengo alla categoria dei somari che adorano gli sciacalli. a un certo punto dice basta. Fatemi sentire Marcello dalla provincia di Teramo. Buongiorno Marcello, chiudiamo con lei. Marcello, è caduto. Ermanno da Milano, buongiorno Ermanno. Buongiorno, guardi, stavo ascoltando, sì, per fortuna, la partenza della telefonata era una telefonata di lamentele, come ormai credo ne riceviate di telefonate, di mail. Dica la sua, faccia la e sua. In realtà poi il dottor Sago mi ha tolto il pensiero dalla testa, sì, e l'ho espresso in maniera perfetta. E il problema fondamentale è proprio questo, che si pagano le tasse, si pagherebbero anche volentieri se ci fossero dei servizi e non dei disservizi, perché ci sono paesi che sono tassati come anche non, più, anche non, di più, però ci sono i servizi. Ah, però ci sono i, questo è. Quindi lei dice, quando, come dice Facco, quando è troppo, adesso basta. Beh, il quando è troppo non è un limite del troppo, è un limite del disservizio. Sì. Nel senso che a questo punto ci si ritrova a dover pagare qualunque cosa, senza però averne poi benefici. Cioè io pago come se io come quelli che si lamentano che paghino le assicurazioni, nel sì, senso, sì, sto pagando un qualcosa che poi toccando no ma è chiaro, no, c'è anche il cellulare che un po' va e viene. La sua posizione è chiarissima, Ermanno, dice, come Facco, va bene pagare le tasse per avere servizi, ma quando poi diventa un disservizio, allora uno dice basta. Io mi devo fermare qui, grazie a Leonardo Facco, grazie a Massimiliano Mancini della NAFE, Associazione Nazionale Fumo Elettronico. Potete riascoltare tutto sul sito radio24.it e da Miriam Lucchetti, che se ne va in vacanza, beata, bella lì, ciao a tutti, se ne va in vacanza, da Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni, che invece rimangono qui insieme all'Alpino, qui Peter Vescapè. L'appuntamento è rinnovato a lunedì prossimo alle 6:30. Basta tasse, basta tasse, basta tasse.